cucciolo, ma sì, dai, su che andiamo, su, su, su. Che c'è dall'altra parte, che c'è? Marco. Chi è? Ciao Marco, Marco, che sono? Sono provando il microfono originale di questa radio che non mi ricordo dove l'ho mai parlato. Telefono. Marco, sono Natalino. Natalino, ci sei? Avanti, chi sei? Chi sei, avanti? Chi era che provava il mic prima? Ciao Marco, c'è qualcuno che sta facendo delle prove, il segnale abbastanza forte, però non si è presentato. Aspetta che lo facciamo venire avanti. Ciao Robè. Stavo preso, come hai detto, avanti, per Franco California. E vediamo, è un po' tutto attrallarato col mic. Avanti, chi era? Luca era? Ciao Marco, guarda che abbassato, vedi un po', questo è l'originale della radio. Sì, adesso è più basso, di modulazione, ha molti bassi. Io c'ho un altoparlantino frontale, però lo sento carico di bassi. Roberto sicuramente ti sa dire qualcosa di più. Che è Luca? Aspetta un attimo, guarda se il programma da mixer si è peggiorato, il basso si è migliorato da così, così chiuso, 1, 2, 3, un po' adesso. Sembra che c'è un tappo in bocca, un pochettino di miglioramento, ma sei tutto carico di bassi, acuti non ce n'è. Sì, un po' carico di bassi, forse ha migliorato appena appena, comunque appena sei entrato era terribile, una cosa. Io ne stavo approfittando per fare altre, anche io delle prove microfoniche, però non, ascoltandomi non rende. Praticamente è un MB più 5, lo sto provando su un presidente McKinley. Però non so il tono quanto lo devo mettere. Robè, a orecchiometro com'è? Io ti ascolto perfettamente, è bellissima la modulazione, naturale, esente da disturbi, perfetta. Ma Robè, ti sei abbassato di tono o ho abbassato io il volume? Boh, vabbè, forse era un po' più lontano, questa è la posizione mia solita. No, no, ho abbassato io il volume. Sì, allora, io qua ho il tono a... Ma quant'è? Allora, il tono è a 3. L'amplificazione l'ho messa a metà perché non avevo una linea di... un coso base, capito, da dove partire. MB più 5 sul presidente McKinley. Ah no, ma qua c'è una cosa che non ci deve essere. Non sia che mi falsi la radio là, i watt. Infatti te lo volevo dire, c'avevi qualcosina di spinta. Comunque ti ascolto bene in entrambi i casi, sia senza che con la spinta. Però Robè, non lo so, un po' bassino, alza un po', rispetto a quando sei entrato sembra appena più bassa di volume. Io non ho toccato niente, adesso mi sono messo seduto bene, come sto sempre seduto, non lo so, vedi un po' tu, io il microfono lo tengo sempre fisso. Luca, vieni avanti, prova tu. Guarda un po' che ho abbassato, se posso, ho alzato gli alti dal mixer, guarda a vedere. Vabbè, qua meglio, io sto usando un altro parlantino frontale, piccolo piccolo, sarà largo 2 pollici, occhiometro, pollici di mano e non pollici inglesi. Quindi un po' non è ricco di bassi, però tu eri abbastanza carico, adesso secondo me ha migliorato, Robè, tu hai un po'? Sì, gli acuti si sentono adesso, però secondo me c'è ancora troppi bassi, togliteli tutti, abbassali parecchio e anche i medi. Allora, così c'è i bassi chiusi, i medi a metà e gli alti a metà. Puoi sollevare un pochettino ancora, appena appena i bassi e abbassare appena appena gli alti. Allora, 3/4 e alzare gli alti. Aspetta, fai un passaggio, ma ti sei allontanato dal microfono? Dipende da come metto la saponetta questa. Allora, così gli alti sono a metà, a un quarto sono i bassi, tu più anzi alla 2 sono i bassi, gli alti sono a metà. I medi a metà e i bassi a 2. Allora bassa a tutti i medi, cioè cosa c'è? 3 regolazioni, alti, bassi e medi? Sì, 3 regolazioni, allora chiusi i medi, così sono chiusi. Prova a parlare adesso. 1, 2, 3, ma sto facendo solo una prova, questo è il microfono originale della radio. Ma aspetta che metto l'equalizzatore dalla radio, così ho inserito l'equalizzatore nella radio. Adesso va bene, adesso è migliorato tantissimo, è naturale la voce. Allora qua per questo microfono bisogna lasciare così. Si aumenta di volume sempre dall'equalizzatore senza toccare il coso, senza toccare il making. No, adesso stai desaturando tutto, tu sei sporcato tutto, non so se hai toccato. No, ho girato appena dal mixer. Ma sei troppo attaccata alla bocca, a che distanza sei dalla bocca? 20 cm adesso, guarda se va bene, se no abbasso ancora il mixer. Prova a parlare? Ma intanto una prova, poi rimetto 60. Vabbè, non è eccezionale, ma comprensibile, dai, molto meglio di prima. La sento un pochettino strappata sui bassi, però magari divertendoti un po' a fare regolazioni. Ma se non è un microfono che ti interessa tenere, lascialo così, dai, poi magari risolvi un microfono più adatto. No, non mi interessa, è l'originale suo questo, era ancora nella scatola, così che ho detto, vediamo un po' se funziona. Dai, rimetto 60, devo rifare tutto però. K, vai Marco. Se mi potessi ascoltare, Luca, guarda se puoi fare qualcosa quando ti viene bene, sentire come la modulazione, poi io mi regolo su quello, capito? Va bene, credo fossero tutti fuori oggi, giornata veramente calda, veramente, pure troppo per i miei gusti, però così è. Io sto facendo ora, adesso devo uscire, per cui adesso ci accendo un attimino se c'è qualcuno e basta. Prova a alzare un po' il livello microfonico invece tu, Marco. Sì, allora, così a 5, in questo passaggio dovrebbe essere a 6, volume 6, e in questo passaggio, vediamo un po', sì, cioè non lo vedo da qua, adesso uguale a prima la posizione, uguale, il tono di voce uguale, il volume a 7. Vedo che sullo Smith la LED è molto più attiva, lo sfarfallio mentre modulo. È migliorata? L'importante è che il tono non sia né troppo acuto né troppo cupo. Allora, gli acuti tu li puoi regolare di quello del microfono? Beh, c'ho il tono unico, li posso rendere, tutto più acuto o più cupo. Fai la prova, uno e l'altra. Ah, allora facciamo così. Allora, da 3 di tono lo metto a 5. Allora, adesso a 3, a 3, a 3, a 4, a 4, a 4, adesso a metà. Tono a 5, metà. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Adesso faccio il contrario. Da 3, prova a passare, aspetta, prova a passare a 2. In questo momento il tono è a 2. E tono è a 2. Sa cos'è? Non lo metto a 1 perché già come passi a 1,5 diventa molto più cupo di botto. Vediamo. Guarda, dovrei essere 1,5. 1,5, 1 di tono, vedi un po' come va? Così è perfetto, quando lo metti più in alto sente il fischio, fai sì, sì, tipo quando c'hai la S moscia, carica troppo gli acuti, così è perfetto. Sciasciari, eia, aspetta, però mamma mia, a 1, dici che è buono così? Porca miseria. Luca, guarda, dimmi quando puoi, se e quando puoi registrare, che mi ascolto. Aspetta, come sono 60, ma che devo di nuovo regolare qua. Sì, adesso ti registro, aspetta. Guardo se c'ho filtri inseriti, ti registro. Abbassa il volume, Luca, sei troppo forte tu. Perché qua da mixer lo tenevo a 1. Poi ho aumentato l'altro microfono, meglio va. Così è perfetto, va benissimo. Ok, no Marco, io ti ascolto bene, naturalmente non è una radio da combattimento, però è una moto naturale, pulita. Eia, ho sentito questo fischiettino appena premo, fermi Però c'è il bip con la radio. No, diciamo, speriamo. C'è come un lieve, come per il mic, no? All'inizio sente questa specie di fischietto, ma vediamo se fischia se lo avvicino. No, non fischia, no, una cosa così, lo fa anche col mic originale, non so cosa sia. No, quanto ce l'hai Tony adesso? A uno sempre o l'hai spostato? A Londra, dovrebbe essere a uno sempre. Sì, a uno, sempre a uno, mi sto muovendo leggermente un po' di lato, un po'. Sono di tre quarti al mic, dai. Quasi frontale, potremmo dire frontale. Ma questo cos'è? Un MB più 5 originale? Sì, allora questo è MB più 5 originale, perché ho modifiche, non ne voglio fare, in caso di vendita voglio che sia vergine come l'ho comprato. E il microfono e il baracchino è un Presidente McKinley, quelli tutti digitali, piccolini. No, no, se vuoi perfezionarlo ancora un pochettino, per toglierti quel leggerissimo z con la S un pochettino così, li metti appena appena di ovata all'interno, perché ti dà un effetto leggermente metallico, però ti ripeto, la radio è bella, pulita, chiara, però se vogliamo essere pignoli, con la S pochettino troppo caricata, prova a metterci davanti, non c'è niente da mettere davanti, un tipo uno strofinaccio o qualcosa sopra il microfono. Dopo lo provo. Sì, la S Sassari Sciasciari. Tu dicevi l'insegnante italiano Sciasciari. È come quando Sassa prova, c'è un po' carico di acuti, però niente di importante. Magari se lo chiudi completamente, chiudilo completamente. Chiudo il tono. Allora, Luca, fra poco leggo quel messaggio così vedo come sto uscendo. Allora, tono a 0, il tono è a 0. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 4, si è pigliata. Non sono un po' pirato. No, no, va bene anche così. Naturalmente l'amplificazione si sente, sento una ventolina sotto o qualcosa. Sì, sì, sì. Quindi tono a 0, tono a 0. Vediamo se lo metto a 10, aspetta. No, il tono, il volume. Si sente sì la ventola. Prova, vedi un po' se adesso è un po' più la battaglia o non ne vale la pena, dai. No, sento un po' di rumore di sottofondo, tra l'altro come sollevi ti modifica anche la risposta, nel senso ti carica di nuovo gli acuti, perché sono circuitini un pochettino così, quelli del MB più 5, non è lineare, cioè se tu alzi il volume ti cambia anche la risposta in frequenza e ti carica un po' gli acuti, per cui il volume che aveva prima andava bene e tonalità secondo me andava bene, quella quasi allo zero. Cappa. Allora, sì, rimesso 7-1, tono 1, volume 7. Vabbè, adesso mi devo ascoltare anche. Luca, riprendi. Sì, guarda, ti ho mandato il video. è tutto. Adesso qua spero di aver rimesso tutto come era. I bassi, vabbè, li stavo tenendo più alti perché non ne avevo. Allora, i bassi mi sa che erano così. Bianco per me. Anche quelli. Da, ok. Sì, ti ho mandato il video, Marco. Però Luca, se è leggermente alto, tu dovresti abbassare un po'. A che distanza sei dal microfono? Per una trentina di centimetri, ma abbasso dal mixer, aspetta. Guarda così, se va meglio. Sì, giusto, così appena appena al limite della saturazione, però ti vedo almeno, perché ascoltarti ti sto guardando, va bene. Mixer, ma come stai utilizzando il controllo di tono del mixer pure? C'ho sia il mixer, ma non il mixer della radio, il mixer a parte, capito? Ho capito, ma c'ha solo due bande di equalizzazione, alti, bassi e medi o c'ha altre tonalità? No, c'ha altri volumi, alti, bassi e medi, poi c'ha questo, non so se è peggiore, c'ha questo, poi c'ha questo, scendo, questo altro volume, poi c'ha questo, che è sempre un volume comunque. È rientrato. Ecco. Questo adesso è aumentato, non so, e poi tre medi, alti e bassi. Ma i medi li puoi abbassare tu? Sì, i medi, non li vado a... aspetta, e sono a zero, così sono a metà, vedi, così sono a metà i medi. Prova a abbassarli un pochettino i medi e sollevati appena appena i bassi, se li puoi fare. Allora, i medi li metto a 2 e i bassi li metto a 7. Adesso sono a 7 i bassi. Ma tu sei, puoi scendere anche negativo il coso, puoi fare più, per dire, più 10, neutro e meno 10. Quanto sei adesso? Allora, adesso sì, posso fare... allora, adesso metto così a 7 e così al massimo. È un innesco, c'è. Innesco? Sì, ecco. Adesso i bassi sono... devo abbassare il volume perché sono in cuffia. I bassi sono a 8 e così sono al massimo. Così, a lasciare così? No, diminuisci i bassi, sono troppo presenti. Metto a metà. Va così, appena più della metà. Aspetta, fammi capire una cosa, tu c'hai tre bande di controllo, ma è un equalizzatore o quelli di potenziometri? Equalizzatore con i potenziometri, sì, con il volume. C'hai tre bande, quindi alti, bassi e medi, così mi dici? Esatto. Allora, posso spostare anche in un altro reparto perché sono tre tipi di microfoni, capito? Può fare sono mixer in base alla tipologia di capsula che si utilizza nel microfono. Allora, adesso questo passaggio andava bene, ma secondo me come ti stai girando? Mi cambia totalmente. Allora, così sono frontale al microfono, mentre così sto girando guardando il mixer, perché il mixer ce l'ho alla mia sinistra. Allora, come ti sei girato? Guardando il mixer andava migliorato tantissimo. Prova a mettere, fai una prova veloce, da così non facciamo perdere tempo. Metti tutto in posizione neutro, alti, bassi e medi, flat, senza esaltazioni. Allora, guarda, vedete? Tutto così e tutto a metà. Così è tutto a metà i tre potenziometri. Poi ci sono i volumi che sono questi. Che questo lo tengo al massimo, poi c'è questo, però questo aumenta troppo. Così sono tutte e tre a metà comunque. Allora, fai un passaggio adesso e poi ci regoliamo il volume. Prova a parlare. Allora, guarda, così sono tutte e tre a metà, sia i medi, gli alti che i bassi. E poi ci sono i volumi. Abbassa un po' il volume che sia un po' troppo alto. Allora, il volume posso abbassare ancora. Questo. Guarda, così meglio qua. Così va meglio. Prova a parlare così vediamo se vuoi caricare di alti, medi o bassi. Perché ha tre tipologie di volumi. C'è quello che ho toccato adesso. Poi c'è questo, che è al massimo, così a metà. E poi c'è questo. Poi c'è questo qua. Che di solito che lo tengo chiuso, se no dice che si sente troppo rumore di fondo. No, no, lascia normale, non mettere niente, quello è un'equalizzazione già impostata sul mixer, probabilmente c'ha delle equalizzazioni già programmate. Metti normale, tutto normale. Cioè, tutto normale. Come di prima, senza toccare niente, il volume è come te l'avevo regolato prima. Allora, allora, i tre sono a metà. Questo era così, questo era, lo tengo basso perché sennò prende troppo casino di fondo, adesso si è accesa la pentola dell'alimentatore. E il primo è a 1. Niente, poi vabbè, aspetta un attimo, ti disinserisco l'equalizzatore della radio. Ok, adesso è disinserito l'equalizzatore dalla radio. E i parametri della radio, dell'equalizzatore della radio, però non li ho toccati, quelli sono di fabbrica, perché uso il mixer, così che non sono stato lì a modificare qui. Guarda, se sollevi un peluzzino, togli l'equalizzatore della radio che ti sporca la modulazione, e se alzi appena appena a livello, secondo me va bene, prova a parlare. Allora, così sono senza equalizzatore della radio, ripeto, alzo il volume, vedi un po'. Così? Un po' troppo alto? No, va benissimo, ti sento un pochettino di sottofondo di ventola, però va bene. Prova adesso, puoi equalizzare dal mixer, puoi utilizzare i controlli del mixer adesso. I medi, gli alti e bassi. Prova a dargli appena appena di bassi. Allora, da metà, così, così a 6, i bassi, Ok, abbassa appena appena i medi. I medi, da metà, lo scendo, diciamo, a 4. Prova a dargli un po' di acuti adesso. Aumento gli acuti. Gli acuti adesso l'ho portati a 7. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Guarda, la parte mia va benissimo. Schede conferma anche a Marco. Io ti sto guardando e ascoltando. Con l'analizzatore, livello microfonico e analizzatore spettro. E da parte mia è migliorato tantissimo. Quando metti l'equalizzatore alla radio ti deteriora tanto. Probabilmente va in saturazione qualcosa. Ok, vai Marco, come l'hai sentito? Sì, discretamente. Discretamente Luca, fammelo riascoltare. Guarda Marco, regolazione fatta così, se va bene, perché questo è un microfono che uso tutti i giorni intanto. Sì, blocca, metti la resina epossidica, fagli la colata e non toccare nulla. Bello, sì, va bene. D'accordissimo, aspetta che guardo chi è che mi ha mandato il messaggio. Alza un peluzzino il livello o ti avvicini un po' al microfono e sei perfetto Luca. Il livello del volume? Livello del volume, guarda un po' a 4 è il livello del volume del mixer, sempre senza equalizzatore di radio. Allora va benissimo, non toccare niente, da parte mia è perfetto adesso, naturalmente tenendo la posizione direzionata in questo modo e la distanza è come era adesso. Se poi ti cambi di posizione cambia anche la cosa, l'intensità e il tipo di qualità. Adesso lascio così, allora grazie. Ok, se permette che devo ritirare la roba che c'è stesa. Ci sentiamo dopo. Riprendi Marco. Scusa Luca, è alzato qualcosa o ti sei avvicinato? Sei un po' più alto adesso. Forse ho alzato la voce, però sono sempre alla medesima distanza. Allora, se non alzi la voce, se alzi appena appena la voce tende a saturare, se no, se ti rimani così è perfetto. Di solito io parlo così. Tappa. Vai Marco, ancora qualche minuto che potevo uscire io. Avevo provato a inserire l'eco, mi ero ascoltato con il volume a 2, però vabbè, non è un granché. Sì, ecco, io mi ero scocciato per quello del K, cioè o parlavi vicino era troppo forte, alzavi la voce era troppo forte, e alla fine mi sono muriato. I baracchini sono molto più accomodanti, diciamo. Va bene. Avessi alla cattedrale di Saccaggio o alle grotte di notturno, Marco? Piazza San Pietro. Perché non è neanche tra una via di mezzo, tra non è che un riverbero. Sì, perché è veloce. Dai, l'ho tolto. Va bene. Bella giornata. Devo fare anche, mannaggia, altre cose che non ho potuto fare. E domani si vedrà. Domani si vedrà. Caspita, sta iniziando a pompare la temperatura, Non so se sia costante. Dicono che sarà un'estate calda. E per me è una dannazione, però. Allora, ieri notte c'era un po' di caldino, adesso ho aperto la finestra, a casa mia ho abbassato la visibile perché c'è il sole, se no mi scalda la stanza. Comunque domani per migliorare le temperature c'è un pochettino di acqua, qualche schizzo di acqua domani, lunedì e martedì. Oh, proprio come feste, appena appena di piovigina e tanto da rovinare la gitta. Lo so, purtroppo, vabbè, io vado lo stesso, vado ad andare dopo Rissano domani per vedere roba. Ok, di lì forse piove di meno, dai, piove un po' la mattina presto e poi diciamo dalle 10-11 non dovrebbe piovere, poi non me la faccio tanto se piove, l'importante non sia una bufera di acqua, una tempesta, se no già non succede niente, almeno mi lavo un pochettino la macchina, anche se sono da un po' che non la lavo. Riprendi? Eia. Tra l'altro da quando sono tornato non ho sentito un'anima in radio, almeno sul 10, sul 23 non c'era proprio nessuno, devono essere tutti in villeggiatura, là, a dirla così. Guarda così. Aspetta, prova un attimo, mi accendo. Allora, adesso sono solo col microfono senza il mixer. E il 60 considera che sono radio e microfono due marche diverse, considera anche quello. Questo è direttamente collegato alla radio e sempre senza equalizzatore dalla radio. Oh, perfetto, pulito, leggermente più basso di intensità microfonica, però ti ascolto molto bene. Ma processore inserito o disinserito? Cioè? No, qua non si può inserire il processore, ce l'ho però è per le bande HF. Ti posso solo inserire, ecco, e aumentare il mic gain, se c'è da aumentare, che è a metà neanche. Teoricamente qua sei proprio al limite, potresti sollevare un pochettino, ma io direi lasciarlo stare così. L'altro col mixer spingevi un pochettino, abbiamo fatto delle piccole accorgimenti diciamo per renderla un pochettino più lineare, ma è bellissima anche così la modulazione, da parte mia va bene anche così, senza niente. Considera che appunto, ripeto, sono con due radio, cioè la radio è Yaesu e il microfono è Kingwood, così che... allora lo ricollego al coso, infatti ero fuori, ha detto adesso prova a collegarlo senza il mixer. Così è naturale, molto salutiera, bella, l'altra un pochettino più diciamo più lineare, con una modulazione leggermente più alta, però ti ripeto sono belle tutte e due. Luca, Marco, vai tu. Roberto, stavo dicendo, sì, il più 5, poi sto usando un adattatore da 6 poli, President a 4 poli Superstar, perché sennò con queste radio, cioè, o devi avere 10.000 microfoni, oppure l'adattatore, almeno lo posso usare su la maggior parte delle radio, sia quelle 4 poli sia quelle 6 poli, mi pare sia lo stesso. Guarda, il President, la Lincoln X10, i CRT 9009, un sacco di apparati hanno la stessa pirinatura, cioè modulazione il pin 1, la portante il pin 3 e la massa il pin 5. Per cui hai fatto un tornallotto, non sai romperti le scatole. E una domanda, come mai io sento le ventole tue e prima mai le sentivo? Perché ho attaccato il cosino qua. Guarda, aspetta che ti faccio un paragone. Ecco qua. No, è una ventolina, Robè, una ventolina attaccata con elastico. Niente di fisso, tanto per raffreddare il bugellus, dai. Adesso senti il silenzio, E non c'è paragone. Assolutamente, questa senza nessun ronzio, senza nessun problemino di sotto, niente di importante, però si sentiva, era un pochettino leggero, però la sentiva, adesso è perfetta, siamo in una stazione di quelle camere anecoiche dove non c'è nessun rumore. Cacchio, questo rientro, che strano, no, me lo facevo anche con quell'apparato, come premevi, nel momento in cui premi, cioè, perché te passa dal PTT al coso e poi entra la capsula, no? L'ultimo contattino è la capsula che viene attivata, però non fischia, non rientra, vabbè. Allora signori, devo lasciare che c'è appuntamento adesso, vabbè, ci sentiamo Mari quando rientrano, tra 2-3 ore, non lo so, se coincide, se c'è qualcuno Mari provo a accendere, se no tutti salutati, anche eventuali amici qua in ascolto su Piovella. Ciao Marco, ciao Luca e ciao a tutti, ciao, vado in collettivo. Ciao Roberto, ciao, buona passeggiata, buon tutto e grazie dei controlli anche. Niente è importante, è un piacere, ciao di nuovo. Ciao Roberto, grazie dei controlli e della regolazione. Sono ritornato col mixer avanti. Oh, Marco, non c'è nessuno, ho chiamato anche a Natalino prima. Sì, Natalino credo che Oggi forse doveva partire la moglie, o già partita, doveva accompagnarla all'aeroporto, non mi ricordo se era oggi o domani, ma credo oggi, e quindi saranno stati un po' indaffarati. Poi adesso che parte si porta il carico di Ucraina a casa, fa festa, capito? Vediamo se offre. Millomi, parli del diavolo. È già in continente mia moglie, è partita stamattina, è partita. Ah, stamattina? E a che ora? Ah, perché tu avevi detto tipo le 6, io avevo capito le 6 di sera. No, alle 6 doveva essere all'aeroporto stamattina, alle 5 siamo in terra, figurati. È già arrivata là, tutto quanto, è a casa della zia di Giorgio, lì. Erano un bel gruppetto, erano, però solo lì l'hanno mandata dalla zia di lui, capito? Gli altri tutti in albergo a pagare. Hai visto? Chi può? Oi, oi, va bene. Natalia, avevo sentito chiamare la Luca con quel microfono, poi è entrato Roberto. Ma in te, lasciamolo andare? È fedele, almeno? Sì, a voglia, ce l'avevo anch'io quello lì, quando stavo via Marginotti. Ehi, e tu Natalì, come mi copi? Vabbè, il microfono è a 7, si può mettere anche a 6, il tono a 1 addirittura. Perché su questo baracchino, se metti i toni a metà, è tutto acutissimo. E l'S, senti l'S, sassari, sono tutte scisci, capito? Fischiate. No, lascialo così e va bene. E l'adattatore, Natalì? L'adattatore da 6 poli a 4 poli. Andrà bene, veda, Marco lì, va benissimo. Aia. Carissimo Luca, perché non sei al mare a mostrare il capecchiare? No, Luca si è sentato. E anzi, vabbè, lui anche ha avuto quella storia lì del vaccino, anche lui danni. E non so fino a che punto possa fare roba fisica. E te le immagini? Bubu, andiamo bene. Sì, ma andiamo bene a vero. Io sono tutto disgraziato, sono, mamma mia. Ehi, ma guarda, io i giorni passati ero, vabbè, ieri sera sono uscito, no? Ero 3 giorni quasi a casa, vabbè, a parte la mini spesa, ero proprio una stanchezza muscolare terrificante. E ho detto, qua c'è qualcosa che non va. Ieri notte, vabbè, sono uscito un po', un'uscita non impegnativa, però torno a casa e mi sentivo quasi, quasi male. Allora, una cosa allucinante, in più sta arrivando il caldo, quindi non te ne dico niente. Me lo posso immaginare, aspettina, qualcuno mi ha fatto i complimenti oggi. Per cosa? Ci abbiamo fatto questa carbonara, cazzo, un bijou è fitta. Ma l'avevi detto ieri che volevi fare la carbonara, e quindi un bijou, dai, ma hai messo anche il guanciale vero? E allora? Con questo pecorino qua, un amore era quella, mi ha fatto anche complimenti, quello che doveva venire, capito? Buonissima è uscita. Eia, segnati la ricetta, Natalì, segnatela, che non dico che la voglio fare, ma tentare almeno, poi anziché carbonare magari c'è un'altra cosa, ma almeno a tentare. No, è inutile che ti do la ricetta, io non la so a mente come si fa, perché a me me l'ha insegnata un cuoco, e praticamente c'è come la puoi mangiare in un ristorante a Roma, però non è, sembra facile, ma non è facile, capito? Neanche quell'amico mio che cucina bene non la sa fare come l'ho fatta io. Eia, è allucinante quanto scalda questa roba, eh? Cioè, ho staccato la ventolina, infatti io la lascio sempre, sempre in presa la ventolina, in modo che continui a raffreddare anche quando non trasmetti. Ho tolto la ventolina per quante? 2 minuti, nemmeno, 3, con passaggi non falconiani, caspita, è bello caldo. Va bene, che poi non ce n'è bisogno che siamo vicini, anzi sai cosa faccio, la bozza. Ah, nudo e crudo. Il mio non scalda così tanto come stai dicendo tu. Stavo parlando, io ho toccato dietro a Nisba. la scarpetta. Quella deve, capito? Vabbè, era, no, era per provare se saturava col microfono. E quindi insomma questo MB più 5 lo sto un po' rivalutando, dai. Cervello che blocchi la portante, to, che non so cosa, Marco continua a cercare roba con le due mani e la portante rimane premuta da sé. Quella è l'unica comodità del microfono a tavola, è quella. Il blocco del PTT, tutto lì. Tappa. Vediamo se qualcuno vuole entrare. Chi c'è sul canale 10, avanti. Nulla. Oh, oggi doveva essere bella al mare. Non so se fosse ventilato proprio al mare, però si poteva provare. Non dico a fare il bagno, ma a pigliare un po' di sole. A proposito, eri poi andato di nuovo a pigliare il sole? No, perché ho portato il cane, però già me l'ho preso un po' di sole qua, lo stesso. Mi sono fatto un bel po', mi sono seduto al bar lì, mi ha preso il caffè e tutto, insomma, già ne ho preso, non c'è problema. Però non ti credere che era questa giornata così, boh. L'altro giorno c'era caldo, l'altro giorno era di lusso. Sì, e domani vediamo di fare qualche cosa fuori porta, dai. Se no è monotona, le giornate sono monotone. Poi dopo domani è di nuovo festa, perché è il 1° maggio, e quindi non ti dico niente. Bene, bene, sono contento. E vabbè, che vuoi che ti dica? Secondo me va, domani scendo, se fa bel tempo prendo il cane, lo metto in macchina e scendo col cane. Ehi, fa bene a te e fa bene a lui, filare un po' di aria di iodio. Proprio. Domani questo gatto ce lo facciamo da abbacchio, però lo facciamo tipo a bacchetto, no? Puffa, che è più grassa, la facciamo tipo porcetto. Portalo qui, lo confezioniamo bene, Marco. C'è un forno che ci sta un agnello dentro. E ha voglia, quindi due gatte già ci stanno comode. E almeno si fanno compagnia. Poverette. No, però Flo lo volevo fare in umido. In umido è più buono. E l'altro invece è il porcetto arrosto, no? Quella più grassa è, la facciamo arrosto. Possibilmente alla griglia. Sì, ogni tanto passiamo col pennello lì, la spennelliamo di grasso, grasso e deve uscire un bijou. Oh, io, poveretta. Flo, vediamo se... mamma mia, questa gattina sempre attaccata a me, lo sai. Allora Flo è più affezionata a mamma, e Flo invece è sempre tra le scatole. Cioè, se io sto qua, lei si mette qua vicino a me sul divano. Se sto in camera sul letto, viene a letto. Se vado in camera del computer, mi segue in camera del computer. È proprio più fedele di una moglie. Se tu la vuoi fare arrosto, cavolo, io volevo andare da Luca lì, catta, che lui c'ha il girarrosto lì col motorino, ogni tanto io passavo col pennello, lo so in tisi. E allora, mi manda sempre queste foto, un bijou, arrostite, girarrosto, di tutto, si fa porco, perché lì bello è in terrazza, lo tengo piano, il fumo non dà fastidio a nessuno, perché tanto sopra non c'è nessuno, e così è bello, dai. Ma lo sai cosa hanno fatto qua? Io me ne stavo temendo, gata, per avere, mi stavo facendo problemi. L'altro giorno che era festa, lo sai cosa hanno fatto in fondo al vicolo? In strada hanno arrostito. Mi pare di avertelo sentito dire, sì. Cos'è, vicolo chiuso quello? Se sono d'accordo, basta che non bisticcino per il fumo, si può fare. Ma almeno hanno invitato, ti hanno. No, l'ho visto dalla finestra, giù c'è il suo fumo, ma... E quelli stavano arrostendo in strada, a Gittabada, con la faccia di quelle signore di malaffare. Ma dimmi tu. E io mi stavo facendo problemi, gli ho detto alla 50, capito? Ehi, vediamo, aspetta che premo il PTT, scusa. allora, così è premuto da me, così il lock, 2 mm e il lock è proprio pochissimi millimetri a destra, va bene, poi questo è nuovo, è praticamente ancora da rodare, è in rodaggio questo microfono qua. Guarda, la cosa più inutile è il V-meter, perché a meno che tu non ti attacchi al mic, non sale. Ora vedo appena appena, se fischio, un cavolo sale, cioè potevano farlo più reattivo, mi. Io ho capito. Il lock ce l'ha bello il turner, perché c'ha la levetta, c'ha a me. Gira, li faccio gli attacchi per il turner qua. Guarda, io sarei curioso di provare lo Shure. Lo Shure, vabbè, sul 3009 è ovvio che va bene. Su questo non lo so, perché qua vedi, i toni li ho dovuti mettere a zero, seguendo le indicazioni di Roberto. E anche Luca me l'ha fatto sentire, Luca, se no è troppo acuta, è troppo SLS, Sassari, senti una specie di sibilo mi. Io ve lo dico a bene, così com'è sta andando alla grande. Eia, ti volevo chiedere, ma poi sapevi la misericordia a Piazza Le Segni che cosa sta facendo? Ha piazzato dei tendoni, che c'è roba di organizzazione. Cosa stanno facendo? Le prove per la guerra? Per dare medicine, per le emergenze, per i viveri? No, sicuramente sono esercitazioni che stanno facendo, capito? Simulazioni sono. No, dicevo, questi tempi di, no, che siamo sull'orlo del baratro, stanno facendo tutti simulazioni, come dire, esercitazioni, capito? Tutti i campi, è come se fossero già pronti, tutto, protezione civile, esercito, tutto quanto. E infatti, è meglio che le facciano, siamo in una in brutte acque, diciamo così. Tu lo senti questo P? No, P non ne sento. Appena ma senti P? No. Ah, meglio, allora lo sento io solo, meglio. No, perché in trasmissione è seccante, può essere seccante per chi ascolta. Avevo provato anche le calecca prima, funziona, ma vabbè, una giabidura, ormai lo mettono in tutti gli apparati, anche quelli che nascono per 10 metri, gli Eniton, no? Nasce per i 10 metri e ci metti l'eco. Ti rimangi un radioamatore chiamando con l'eco a 28.5. Immagina le bestemmie che li tirano. Infatti. Cazzo con l'eco. Devi togliere tutta l'amplificazione in banda laterale, perché se non sei già troppo amplificato ti dicono cosa, figurati. La voce deve essere chiara, presente. Veglia. Ti dicevo, Natalie, lo Shure, quello di Franco Binario, no? Vabbè, è un microfono di 40 anni fa, però se io fossi stato più accorto me ne sarei accaparrato uno, all'epoca erano nuovi, e adesso magari compri, li trovi toccati, con capsule cambiate. L'unica cosa è che il tono è fisso, dovrebbe essere fedele in modulazione, il tono è fisso, mentre qua vedi, l'ho potuto aggiustare, fosse stato un MB più 4 non avrei potuto ritoccare il tono, e magari sarebbe stato troppo acuto su questo baracchino del Menga. E questo ti piace? Buonasera. Oh Giulio, buonasera, ben entrato. Sì, Giulio, tu vai sempre bene, che usi un watt e che ne usi tutti. Io li avrei usati tutti e 12, perché è cosa buona e giusta, dai. Ok. No, vabbè, comunque, ultimo, non c'è problema. Ciao Natalino, buona serata. Buona serata anche a lei e ben entrato, signor Giulio. Allora già sto andando. Comunque lo sento quel bipi quando schiacci, o Marco. Ah, eccolo. Giulio se ne accorge. Eia, Giulio, tu stai usando il solito apparato? Presumo, Questo è il McKinley con l'MB più 5. ho dovuto correggere i toni dietro l'indicazione di Roberto, perché sennò era troppo acuto su questo apparato. K. No, non lo sto usando, è un altro, questo è un altro, Marco. Provo ad ascoltare bene il microfono. Beh, sai cos'è, non sono allenato per l'orecchio, forse ho capito, sì. O è l'uno e l'altro, dai, diciamo. Va bene, no, va benissimo, segnale qua è 9, smitter a LED, peraltro secco, Questi presidenti li fanno, li smitter un po' secchi, praticamente il Santiago 9, li rotarono a 100 microvolt anziché 50 come dovrebbe essere. Ok. Però no, se metto questo è troppo così, è vero? No, troppo, così è troppo, distorce già. Quindi vabbè, quindi tarandoglielo a 100 microvolt sono secchi di un Santiago, tu sei 9, ma in teoria dovresti essere 9,5, che poi quando me lo segna comunque, perché dopo il 9 c'è il 10, il 20 e il 30. Per esempio Natalino arriva sul 20, qua. Diciamo che di bello ti fa capire più le distanze, capito? Per esempio su altri apparati, su altri baracchini, tutti quelli sassari sono 9,30. E lì non ti rendi conto della distanza, qua almeno Natalino 9,20, cioè distanza media, Carlo per esempio sicuramente segna 9,30 e già lì ti accorgi della distanza, capito, della... Va bene, riprendi Natalino. E qua sei 9,30 tu infatti. E poi con questi Smith era un imbroglio Natalino. Per esempio c'è quel CRT, quello 40 canali, no, quello omologato, presunto omologato, dai. Allora, lo smitter è fatto male, cioè c'è il 3, il 5 e poi il 9. Allora, il 7 non te, c'è la tacchetta del 7, ma non te la segna, perché o si accende il 5 o si accende il 7 e il 9 assieme. Cioè, sono mezzi finti, capito? Li accomunano e quindi c'è un abisso da 5 a 9, quindi se arrivi o 6 o 7 o 8 o 9 segna sempre solo 9, capito? Se poi sei oltre il 9 segna solo 9 più 30, perché le due tacchette si accendono tutte assieme. Cioè, no, tanto vale non metterne smitter a quei livelli. E infatti, non è di nessuna utilità, diciamo. Così comunque lo sappa, così lo sappa, comprende? Giulio, non sei uscito? Ho detto, così lo sappa, comprende? No, troppo basso Giulio, Radio 1, alza. Ecco, così non va? Va bene così? Così direi ottimale. Mentre così è ancora troppo basso, vero? Dovrei aumentare ancora un po'. Sì, così è basso, vero Natali? Sì signore, a uno vuole. Che poi mi ricordo nel 140 che ho avuto io era decimillimetrica, cioè alzavi di mezzo millimetro ed era troppo alta, abbassavi di mezzo millimetro ed era troppo bassa ed era su quella linea di confine mio, un po' ambigua. Senza, così va bene, vai. Senza il processore così va bene. No, troppo alta, Troppo forte così? Allora abbasso così. Così va bene? Sì, già va bene così. Però poco fa era troppo alto. Confermo. Ok. Va bene, dai. Dipende anche dalla distanza che parlo. Va bene, dai. Volevo farlo sentire a Luca. Luca che sempre si lamenta, che vuole sentire questa. Vediamo se è rientrato. Luca, sei rientrato? No, si è sentato da prima e non è rientrato più. Ok. Vabbè, comunque, 5 watt, non di più. Non di più, anzi di meno. Meno di 5 watt sto andando. Eppure io. Allora, aspetta. Ogni tanto mi devo abituare a questo blocco del PTT, siccome c'è una cosa di gomma sotto, quelle antiscivolo, no? Quel tappettino antiscivolo che metti sul cruscotto, ce l'ho al telefono, un po' di sporgenza e tocca il tasto quando lo abbasso. Come volevo dire? Mi è passato di mente. Ok. Va bene, invece se faccio così aumenta anche di potenza. Guarda lo smitter adesso, Marco, guarda adesso lo smitter. Più 10. Naturalmente qua ho 9, 9, 10. Se sei 9,5 segna 9,10, capito Giulio? Ok, aspetta che abbasso. Ecco, 5 watt, giusti giusti, così. Così 5 watt, giusti giusti. Vai lui, vai Natali. Io lo faccio 2 watt così non sbaglio. Tanto mi sentite lo stesso. Perciò se ce n'è a voglia. Ho fatto questa carbonara oggi, oh giù, anche i complimenti qualcuno mi ha fatto. Cosa ti volevo dire? Il riso ai frutti di mare l'avevo già fatto io, lo faccio sempre, quello lì. Ho capito, è buono, buono, abbasso ancora, sto abbassando ancora. Ecco qua, 2 watt e mezzo più o meno, una cosa del genere. Sì, lo so, sono dei piatti molto buoni, oh, Natali. No, io ho mangiato oggi cosa con il gorgonzola, come si chiamano, gnocchi di patate col gorgonzola, buonissimi. E a me non piace il gorgonzola, vedi? E a me invece piace moltissimo. Piace moltissimo, veramente. Sono ghiotto di gorgonzola. E a me non piace, quindi non le faccio neanche perché non mi piace. Se no già le so fare quelle cose a buglia. Sacrilegio, gorgonzola, caspita. Io lo mi ci farei il bagno anche nel gorgonzola. Lui mi ha già bocca, ruguri d'occa, mi disegido. A me non piace purtroppo il gorgonzola, non mi è mai piaciuto, la verità. Vabbè, gusti sono gusti, però in effetti a me è sempre piaciuto. Anzi, se è piccante meglio ancora, sai quello bello. Mamma mia! E il pezzatino con le patate, ti piace? Buono anche quello, e mi esce benissimo a me. Quello mangiato per secondo, sono piatti buoni. E vabbè, comunque sì, no, comunque il riso ai carciofi e il riso ai frutti di mare sono veramente buoni, e la pasta asciutta anche con le costre alla grande. Io lo grido, uno di voi che l'ha giovata con le asselle, l'ho fatta, insomma, già mi difendo cucinando quelle cose. Sì, l'ho mangiata ieri la pasta asciutta con le cozze, fusilli con le cozze, e poi che sono buone, mamma mia. Vedi, un'altra pasta antipatica sono i fusilli, non ribosso vedi, e se no le farfalle mi puccica, manco chi si posso vedi. Mi so che bova le giriadu io, pari così. E quelli sono tutta la pasta che più piace a me, soprattutto le farfalle. Farfalle, fusilli e le reginette, quella è la pasta che più mi piace, pensa un po'. Ah, e le bavette. Quelle piacciono anche a me. Infatti non so se farle con i frutti di mare domani, non lo so. Buoni. Non c'è che dire. E tu Marco? Sì, tutto buono, io sono abbastanza buon gustaio. Magari non stravedo per certe cose, però le mangio lo stesso. Ah, dei watt stavo dicendo prima Giulio, praticamente il baracchino l'ho controllato prima col wattmetro, quello buono. L'avevo regolato a 3,5 come adesso, però tu conta che io ho il famoso filtro. E quindi dopo il filtro ne escono meno di 3, tra 2,5 e 3. E in più la lunghezza del cavo, e quindi perderò un terzo di watt, bene andando, se non la metà, figurati quanto avrò in antenna, avrò 1,5 watt. Ecco perché certe volte metto la scarpetta, perché se mi segna 50 watt qui dopo il filtro, in antenna ne arriveranno, allora bene andando 35 watt, male andando me ne arrivano 25, la metà, capito? Ecco perché tendo a compensare un po' dando qualche watt in più, perché poi Ho abbastanza perdita, dai, in trasmissione. Ehi, buonasera. Ah, ciao già. È all'ombra. Ehi, in compagnia di Giulio e di Natalino. Stavamo parlando di microfoni, di watt, di roba da mangiare, mi. Natalino ha fatto una carbonara delle casse Baffi. La prossima volta li compro gli ingredienti e me la faccio cucinare. Io porto l'occorrente e lui mette l'intelletto. Vai Natalì. Cazzo, se lo sapevo ti invitavo, almeno eravamo in tre invece che in due. Cavolo, se l'assaggiavi tenere capi baffi, Marco. Buonasera Natalino e buonasera anche a Giulio. Io ho preparato per domani una teglia di pasta al forno, l'ho messa in frigo e domani la metto in forno. E fai bene, ciao Gianni, ben arrivato, 9+20 per te. Scappa, sì dai, così almeno non sono indaffarato, domani c'ho gente a casa e se no mi tocca fare tutto domani. Invece domani mi cucino la roba arrosto e quella lì la metto in forno, dopo tanto ci mette una mezz'oretta a cucinare. Ok. Sì. Va bene, dai. Stavo dicendo, questa modulazione ti piace, migliore dell'altra, è vero? Più pimpante. Vabbè. Se mi avvicino così, ancora più pimpante oppure più fastidiosa? No, fastidiosa no, ma andava meglio prima, secondo me, prima più limpida la radio. Che microfono? Sì, a 50 centimetri. Beh, già va bene, dai, va benissimo. Lo stai usando col K? Sì, no, 2 watt e mezzo. Sì, non lo sprechi, no? E che motivo c'è di dare di più? Non c'è motivo. No, ma infatti. Va bene così Giulio, per me arrivi bene. Anche Marco mi sente bene, Natalino altrettanto, per cui pure all'occasione naturalmente posso sempre rimediare, però adesso l'ho tolto fuori così.